92.9 di Radio Onda Rossa. Anche per oggi 4 aprile del 2018 c'è prove tecniche di trasmissione da adesso a circa le 22.30. Dopo di noi è già qui negli studi anche lui, c'è 20, ci sarà 25 o'clock. Prove tecniche di trasmissione ormai dal lontano 1992, spazio che cura suoni affini all'industrial, al dark ambient, al noise, alla sperimentazione in genere. Lo 064917 il contatto, 491750 il contatto telefonico, il sito internet www.ondarosse.info anche per usufruire del nostro streaming. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. E per quanto riguarda la playlist e il podcast di questa puntata, sia sul sito sia sulla pagina prove tecniche di trasmissione /disorder, pagina di Facebook, in entrambi i posti verranno pubblicate appunto playlist e podcast. Salutiamo già i vari personaggi in ascolto, tra cui Alessandra qui da Roma, Luciano anche qui da Roma, Maya dall'Argentina, il buon Raffaele Pezzella da Napoli, Riccardo da Taranto. E ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno sottoscritto il crowdfunding per comprare questo nuovo trasmettitore che presto verrà installato, che permetterà anche una migliore ricezione di tutti i nostri programmi. Salutiamo anche Govind Singh Kurana, nome un po' altisonante, perché presumo non sia vero. Lui viene da Ferrara, dalla New Model Label, una etichetta con la quale apriremo proprio questo programma a breve. Un saluto anche a Lucky Way, che è qui da Roma. Dunque, nel salutare, come ha detto Govind, noi cominciamo con un artista che incide attraverso questa realtà emergente proveniente proprio da Ferrara, ritengo, la New Model Label, e sto parlando di Alberto Nemo, un personaggio oscuro e dei tratti misteriosi proveniente da Venezia, con all'attivo due lavori, 6x0 e 6x0 versione live. Qualcuno la potrebbe definire una formula, come dire, evoluta di cantautorato. La cosa che mi ha colpito di questo artista è la sua vicinanza a certe atmosfere dei Coil e di Anthony The Johnsons, due artisti a me particolarmente cari, e quindi ne sono rimasto immediatamente colpito, e di questo chiaramente ringraziamo sempre Govind Singh Kurana. Sei per zero dunque questo lavoro, che si apre con Avon Repus e poi ci sarà Risveglio. Benissimo, fa l'esordio dunque in prove tecniche di trasmissione questo artista proveniente da Venezia, Alberto Nemo, con questo 6x0, questi bozzetti onirici ovattati dal tono austero, così intimisti, e che, come ho già detto, personalmente mi ha ricordato certe pagine di John Balance e dei Coil, ma anche le tonalità vocali di Anthony and the Johnsons. Ed è curioso come ultimamente venga da Venezia del materiale molto interessante. Oltre a questo Alberto Nemo, abbiamo scoperto anche recentemente War War Washington, che abbiamo mandato lunedì scorso in serie di Disorder. Lì siamo in lady più electro goth. Qui invece i tratti sono più sperimentali. Salutiamo intanto Gabriel from London e Fio invece qui da Roma. E nel salutare di nuovo Raffaele Pezzella, anche per questa sera ci andiamo ad avvicinare alla sua compilation che tratta della scena dei Balcani, questa scena particolarmente interessante anche dal punto di vista della sperimentazione musicale. Unexpressed Sounds, dunque, The Balkan Perspective 2018, Balkan Experimental Survey Post Industrial Culture Series, questo è il titolo completo, ad opera di Raffaele Pezzella e della sua label, appunto, Unexpressed Sounds, che è anche un gruppo Facebook che consiglio caldamente di frequentare per andarsi anche ad ascoltare delle chicche gustosissime. Quindi, tornando a noi, questa sera ci ascoltiamo Adonai Atrofia con Act 4 Project e poi ci ascolteremo My Trip, un altro artista proveniente dai Balcani, e poi Raffaele poi ci chiarirà meglio dove esattamente provengono questi due artisti, e My Trip invece ci presenterà Slit My Own Throat. Serafin Beluvian, in arte Adonai Trofia, proveniente dalla Bulgaria. Ringraziamo Raffaele del chiarimento. Stratificazioni musicali che ci portano dentro un vero e proprio abisso oscuro. Suoni spettrali dunque per Adonai Atrofia. Ancora dalla medesima compilation, eccolo qua dunque My Trip, altro misteriosissimo personaggio. Questa è Slit My Own Throat, My Trip. Tornando un attimino ad Alberto Nemo, come giustamente ci ha sottolineato Alessandra, effettivamente anche la somiglianza con Gordon Sharp ci può stare. Gordon Sharp dei Cyndi Talker, prossimamente qui a Roma, nel suo progetto Becoming Animal insieme a Massimo Popillo degli Zoo, lunedì prossimo qui a Roma. anche lui algido ed astratto, questo My Trip di Angel Simiciev, anche lui proveniente dalla Bulgaria, e anche lui arricchisce questa Nespresso Sounds The Balkan Perspective, una veramente interessantissima compilation di Raffaele Pezzella che continueremo ad ascoltare anche la prossima settimana. Benvenuto anche a Massimo Mascheroni in quel di Milano. E proprio dalla Lombardia, credo proprio da Milano, provengano Satanismo Calibro 9, progetto storico di death ambient e di ritualismo in genere. Francesco Perizzolo, fondatore, e collaborano in questi dischi anche Daniele, in questo disco anche Daniele Santa Giuliana e Lorenzo Battuor di Warnos Island. Questo è Kima Rising, che è sia il titolo dell'album e anche del pezzo. Yeah. dunque il penultimo lavoro per Satanismo Calibro 9 di Francesco Perizzolo, si chiamava Kima Rising, questo era il brano omonimo. Atmosfere lugubri spettrali, ritualismo e esoterismo a gogo, come si suol dire, credo che dall'inizio del programma. L'andamento è stato più o meno questo, tra astrattezze varie e appunto ritualità. Risaluto di nuovo Govind Singh Kurana, che ci sta ascoltando da Ferrara, ricordo con il quale attraverso Alberto Nemo abbiamo aperto questa puntata di oggi, 4 aprile del 2018. Molto materiale italiano e infatti andiamo avanti, alziamo un po' i toni e ci perdiamo nel tribalismo di Go Dugong, un artista proveniente anche lui da Milano, Gianni Fonseca. All'attivo tre lavori, i precedenti si dipanavano soprattutto su atmosfere elettroniche, in parte anche riconducibili per esempio al big beat addirittura, mentre qui opera una svolta netta dal suono e appunto una sorta di viaggio nell'Asia, soprattutto dalla parte dell'India, una sorta di cronaca, un diario di bordo se vogliamo. E quindi riproduzioni di suoni proprio live, di processioni religiose, suoni carpiti da un taxi e suoni carpiti dalla foresta. Questo è Go Dugong Indian Firths. E ci ascoltiamo per Yar, Naya Naya e Braya. Intanto salutiamo anche Nicola Locci dalla Sardegna, lo salutiamo. Una delle novità più eccitanti di questo 2018, Go Dugong, artista proveniente da Milano, vero nome Gianni Fonseca, in questo viaggio, in questo diario di bordo nelle terre così lontane, dal nome Indians Farce. Tre passaggi di questo lavoro che chiaramente ascolteremo anche le prossime settimane. Ritmi medio orientale, Asia, vissuta veramente dalla strada, e piace anche al buon 25 O'Clock che con scoppola e rutto libero è entrato qui negli studi. Salutiamo anche Tania. Personalmente anche ricordato Siam Gda, artista tedesco che ha unito cose anche più elettroniche insieme a questi ritmi e alla magia delle timbales, per non parlare poi di Muslin Ghosh ovviamente, e se vogliamo tornare ancora più indietro così a livello molto embrionale si può anche ritrovare il seme di My Life and the Bush of the Ghost di David Byrne e Brian Eno, opera summa degli anni 80. . 21:57, 87.9 in modulazione di frequenza, sempre prove tecniche di trasmissione, ancora per circa una mezz'oretta. Adesso un cambio netto di sonorità, ce ne andiamo da Gaia Donadio, ossia Anti-Child League, insieme a Syscom, in un nuovo progetto dal nome Exas, una mini LP dal nome Liberty Nest, e ci andiamo ad ascoltare la terza e la quarta traccia, ossia Elborn e Art Demands War. Light, and there was light to the flame.